Focus Economia. Le 17:09:15. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Non crediate che anche oggi in qualche modo non si tocchi l'argomento delle regionali anche in Focus Economia, perché chiaramente da molti osservatori, o almeno da alcuni osservatori, viene fatto notare, dopo quella che viene interpretata come una sostanziale conferma del governo, naturalmente non da tutti ma solo da alcuni, ebbene, dopo questa sostanziale conferma del governo ci vogliono 3 anni di impegnative riforme proprio e soprattutto sul fronte economico. Di questo si è parlato oggi, di questo parleremo in Focus Economia. Se ne è parlato anche perché oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha presentato, insieme ai responsabili della missione italiana del Fondo Monetario Internazionale, ha presentato il rapporto della o almeno le conclusioni preliminari del rapporto della missione del Fondo Monetario Internazionale in Italia, e ha toccato il ministro dell'economia anche naturalmente il tema delle riforme invocate a gran voce dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, a partire naturalmente dalla riforma fiscale, della quale ormai si discute da qualche mese, ma che sarà naturalmente, come lo stesso ministro Tremonti ha ribadito, una riforma a lungo termine. Parleremo di questo, parleremo naturalmente e come sempre di mercati, come vi abbiamo riferito poco fa, piuttosto deboli in questa giornata, nonostante un dato tutto sommato positivo sul fronte della fiducia dei consumatori americani. Tenete presente in questo momento, e proprio in questo momento, il Dow Jones ha virato a ribasso, un calo dello 0,06%. Pesano alcuni settori naturalmente e anche alcune incertezze. Di questo parleremo, così come parleremo del mercato immobiliare, perché oggi è stato presentato un nuovo rapporto, in particolare per quanto riguarda i prezzi, da parte di Nomisma. Vedremo di capire anche un attimo quale potrà essere l'evoluzione del mercato, considerato che, come sapete, naturalmente è dall'immobiliare più o meno che si è scatenata un po' tutta la crisi, ed è sull'immobiliare che ha avuto un fortissimo impatto. Prima di tutto, come sempre, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo come sempre dal petrolio, un petrolio poco mosso all'apertura del mercato di New York. Nei primi scambi le quotazioni oscillano 82,10 dollari con un calo di 7 centesimi al barile. E sempre per rimanere sul fronte energetico, nella settimana da lunedì 22 a domenica 28 marzo il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è stato pari a 61,22 euro per megawatt ora. È stato un forte ribasso rispetto alla settimana precedente, un meno 7,7%. Bene, della fiducia dei consumatori già vi avevamo accennato. La fiducia dei consumatori americana, l'indice ha subito un balzo, un netto rialzo a quota 52,5 punti dai 46,4 di febbraio. Il dato era stato già rivisto, le previsioni degli analisti indicavano un aumento a 51 punti. Ecco qua si registrano previsioni discordanti, alcuni indicavano 51 punti, alcuni indicavano almeno 50 punti. Fatto sa che le cose sono andate meglio delle attese, eppure le borse non hanno reagito un granché bene. Più avanti cercheremo di capire perché. Sempre notizie di mercato in qualche modo, perché Standard & Poor's ha tagliato il rating dell'Islanda da BBB+A-2 a BBB+A-3, quindi naturalmente lo ha peggiorato dopo la decisione, con il referendum votato dagli islandesi, di non restituire 5,5 miliardi della banca fallita Icesave alle banche olandesi e inglesi, che poi avevano risarcito i loro risparmiatori. Notizie dall'economia internazionale, o meglio europea. Un dato che ci viene confermato per il 2009, che riguarda la Francia: il calo del prodotto interno lordo del 2,2%. Il dato definitivo è confermato anche il più 0,6% della crescita del PIL del quarto trimestre rispetto al trimestre precedente, mentre l'andamento tendenziale mostra comunque una flessione dello 0,3%. E poi, per quanto riguarda la Germania, il Fondo Monetario Internazionale vede una ripresa dell'1,2% nel 2010 e dell'1,7% nel 2011, quindi tutto sommato piuttosto debole, dopo una caduta per il PIL di quella che viene ancora considerata la locomotiva d'Europa del 4,9% nel 2009. Qualche dato dall'Italia. L'Istat ha fornito dei dati disaggregati per singoli settori per quanto riguarda il fatturato delle imprese, il fatturato in rosso per una serie di servizi, insomma, non si parla dell'industria. Il trasporto aereo meno 20,9%, va giù anche il trasporto marittimo e per vie d'acqua meno 12,6%, commercio all'ingrosso meno 11,1%, servizi postali meno 6,1%, servizi di informazione meno 4,1%, lievemente meglio manutenzione e riparazione di auto veicoli, meno 1,9%, evidentemente una di quelle cose delle quali non si può fare a meno. I dati sulla casa diffusi da Nomisma, poi li approfondiremo un pochino meglio. I prezzi sono ancora in calo nel 2009, in media dello 0,7%, con un calo più intenso nelle grandi città, meno 4,1%, e di poco inferiore in quelle intermedie, meno 3,7%, e si prevede ancora un calo per il 2010. Ne parleremo più avanti, dopo la borsa, e vi ricordo già da adesso che poi se ne occuperà domani Salvadanaio in onda alle 12. Notizie da Fiat. In questo momento i sindacati e l'azienda sono riuniti al Ministero dello Sviluppo Economico per parlare dello stabilimento, questa volta non Termini Imerese ma Pomigliano d'Arco. Sono previsti 500 dipendenti in mobilità verso la pensione, quanto si afferma appunto dall'azienda. Il Lingotto ha inoltre indicato che il sito campano dovrà produrre 270.000 panne, una produzione per cui si renderanno necessari 18 turni lavorativi settimanali, interventi di ristrutturazione impiantistica e maggiore flessibilità. Vedremo come risponderanno i sindacati e vedremo se riusciamo a darvi già qualche aggiornamento nel corso di Focus Economia. Sempre a proposito di Fiat, Sergio Marchionne, amministratore delegato, ha parlato a New York, è stato interrotto dalle proteste di 6 persone che sono entrate in sala con una tuta bianca sulla quale c'era scritto Fiat Chrysler Crash Dummy, con riferimento ai manichini utilizzati per il crash test delle auto. E poi Marchionne, parlando però, ha detto: Fiat e Chrysler sono un'alleanza nel vero senso della parola. L'umiltà, la pazienza, l'ascolto e la comprensione sono quello che serve a Fiat Chrysler e all'industria automobilistica. Notizie anche dal mondo bancario nella giornata di oggi, anche questi sono temi che toccheremo sicuramente nei mercati. La riunione Lampo per il direttivo e il patto di sindacato di Mediobanca, ve ne abbiamo parlato naturalmente nei giorni scorsi sia in Focus Economia che naturalmente nei nostri giornali radio. Renato Pagliaro è stato indicato come presidente dell'istituto, così come era atteso Angelo Casò come nuovo presidente del patto di sindacato. Poi ancora notizie dalle banche per quanto riguarda Banca Intesa. Parla Giovanni Bazzoli, presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, uscendo dall'incontro con i manager. Dice: sono da 28 anni in banca e non ho mai fatto dichiarazioni di ordine politico, né ho mai fatto prendere alla banca decisioni influenzate dalla politica. Proprio un politico interviene sul tema di Unicredit, dice il neo presidente del Veneto, Luca Zaia: più la banca è local, più ci piace. Questo è il messaggio che mandiamo a tutti. Accoglie positivamente Zaia l'indicazione che Unicredit non sarà più una mega super holding nazionale, parole di Zaia, avrà un country manager, cioè la visione di un manager nazionale che spero abbia ricadute a livello locale. Sul tema dei rapporti con la politica interviene anche l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo. Noi abbiamo azionisti da tutto il mondo, dice, rispondendo alla domanda se la Lega possa essere considerata un nuovo azionista di riferimento della banca dopo la sua forte affermazione alle regionali. Ricordiamo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ha il 5,7% appunto di Unicredit. Profumo aggiunge: per noi non c'è nessun rischio dall'esito delle elezioni. E veniamo al primo tema di questa giornata, la missione del Fondo Monetario Internazionale in Italia. Oggi alle 13 conferenza stampa del ministro dell'economia Giulio Tremonti e del capo missione del Fondo Monetario Internazionale Bennett, appunto su queste conclusioni preliminari della missione del Fondo Monetario. Quali sono le previsioni al momento? Questo giusto per inquadrare le cose del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda l'Italia. Per il 2010 un PIL in crescita dell'1%, deficit PIL, rapporto tra deficit e PIL intorno al 5%, debito al 120% del prodotto interno lordo. Dunque, proprio sul tema della ripresa e del debito sentiamo un esponente del Fondo Monetario Internazionale, un consigliere del Fondo Monetario Internazionale, Antonio Spilimbergo. Come loro sanno, c'è una ripresa che è fondata soprattutto sulla domanda esterna, però questa ripresa è ancora, non è ancora completamente fermata, dipende molto da cosa succederà in Europa. Come dicevo prima, l'economia italiana è fortemente integrata all'economia europea, quindi ogni previsione per forza di cose dipende da quello che succederà in Germania. Nel futuro, quali sono le cose importanti? Due grosso modo. Una, contenere la spesa pubblica. Anche se è stato fatto un buon lavoro di contenere la spesa pubblica durante la crisi, pensiamo sia fondamentale continuare a ridurre il livello del debito pubblico. E ancora, l'Italia è uno dei paesi con più alto debito pubblico, è una eredità che ci portiamo dal passato e ora si dovrà lavorare per diminuire. Però oltre a lavorare sul numeratore, per così dire, di questo rapporto debito GDP e PIL, è molto importante introdurre alcune riforme strutturali che aumenteranno anche la possibilità di crescita dell'economia italiana nei prossimi anni. Eh già, perché il tema è proprio questo, perché al di là della questione dei conti pubblici naturalmente c'è anche la crescita, una crescita italiana che continua a risultare piuttosto debole. Questa è l'opinione del Fondo Monetario Internazionale, soprattutto il potenziale di crescita italiano, cioè la capacità dell'Italia di una crescita economica è piuttosto basso, secondo l'FMI. Certo è che secondo il Fondo Monetario Internazionale l'azione del governo in questo periodo di crisi è stata un'azione positiva e nel suo complesso l'Italia e anche il suo sistema bancario oggettivamente hanno retto bene. Sentiamo ancora Spilimbergo. Tre cose hanno contraddistinto l'Italia rispetto ad altri paesi. Prima di tutto le banche. Le banche sono state, a differenza di altri paesi, si sono dimostrate molto più solide. Questo grazie a una regolazione molto forte che aveva messo già in che aveva già introdotto Banca Italia, ma anche grazie a un modello molto conservatore, molto prudente delle banche italiane. Secondo fattore fondamentale è stata la decisione di non avere uno stimolo fiscale molto grande come c'è stato in altri paesi, negli Stati Uniti, in Germania, in molti altri paesi c'è stato uno stimolo dell'economia e della parte fiscale più o meno del 2% in media. Questo non c'è stato in Italia e questo si è dimostrato una decisione giusta. E questo contenimento fiscale ha trasmesso un segnale forte ai mercati che non ci sarebbe stato, la crisi non sarebbe stata una scusa per aumentare la spesa fiscale ulteriormente. Terzo fattore abbastanza importante è stata la disoccupazione, che non è aumentata così tanto come in altri paesi. Quindi questo il quadro tutto sommato positivo offerto dal Fondo Monetario Internazionale. Certo, naturalmente c'è ancora molto da fare e vi preannuncio già da adesso che poi torneremo a parlare di questo tema, del tema delle riforme, ascolteremo anche qualche voce del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti proprio sul tema appunto delle riforme, della necessità di crescita. Lo faremo dopo le 18. Intanto rimaniamo su quelli che sono i giudizi del Fondo Monetario Internazionale anche su riforme già varate ma ancora non messe in atto perché mancano i decreti attuativi. Lo avrete intuito, stiamo parlando del federalismo fiscale che fornisce secondo il Fondo Monetario una opportunità per rafforzare la responsabilità fiscale e la disciplina a tutti i livelli di governo. Ci sono state alcune iniziative molto importanti di medio e lungo periodo. Una che segnaliamo anche nel rapporto è stata la decisione di della legge sul federalismo fiscale del maggio 2009, è una legge molto importante, che le autorità vedono molto importante soprattutto per aumentare l'efficienza della spesa pubblica e nel contempo contenere la spesa. È una legge quadro, una legge aperta, su cui ancora si sta discutendo di come riempire le varie cose, e pensiamo che nei prossimi mesi ci saranno i tasselli verranno messi a posto. È una sfida ed è un'opportunità. Come vi dicevo prima, la legge è ancora una legge quadro, è uno scheletro, non ci sono ancora i contenuti concreti e come si dice in inglese, the devil's is in the details. Il governo sta ancora lavorando su come attualizzare questo. Come fondo monetario sappiamo che il federalismo molte volte può essere conduttivo, può condurre ad aumento della spesa pubblica, è successo in molti paesi. D'altro canto il ministro Tremonti ci ha garantito che sua ferma intenzione che sia diversamente in Italia e penso che i prossimi mesi saranno molto importanti per vedere in che direzione si va. Dunque, per riassumere complessivamente tutto quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale, insomma, di cose ne hanno dette parecchie, ma insomma, giusto per dare un quadro generale. Allora, il Fondo Monetario dice: l'azione del governo complessivamente per fronteggiare la crisi è stata positiva. E ci sono una serie di elementi positivi che riguardano l'Italia e sono: la tenuta delle banche rispetto a molte altre banche europee e non solo, e anche naturalmente e soprattutto americane, indica il Fondo Monetario comunque alle banche di rafforzare il capitale. Cosa dice ancora che sul fronte il Fondo Monetario? Che sul fronte disoccupazione le cose sono andate meglio che in altri paesi. Quali sono i nodi critici secondo l'FMI? Che la ripresa italiana è fragile e modesta, e il punto qual è? Che non lo è solamente per il 2010, perché come vi abbiamo detto poco fa c'è un problema che riguarda anche la Germania, che l'anno prossimo secondo il fondo crescerà dell'1,2%. Il punto è che è un problema strutturale dell'Italia. Che cosa deve fare il nostro paese? Implementare delle riforme per rendere più forte la crescita, e poi naturalmente c'è il consueto problema, è quello dei conti pubblici, ossia bisogna ridurre il debito. Prima di andare dopo le 18, come vi abbiamo detto, a sentire che cosa ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti sulle riforme, iniziamo a sentire invece che cosa ha detto il ministro dell'economia Tremonti proprio in risposta ai giudizi del Fondo Monetario. Noi condividiamo totalmente l'analisi che è stata fatta sulla crisi e sull'impatto della crisi sull'economia italiana. Apprezziamo naturalmente alcune valutazioni positive sulla politica fatta dal governo per gestire la crisi e soprattutto raccogliamo la sfida sulle riforme strutturali. Ho detto, abbiamo davanti 3 anni senza elezioni e 3 anni sono un tempo sufficientemente lungo per fare le riforme. E le avremmo fatte comunque. Sicuramente avere vinto le elezioni è un elemento di forza, evita complicazioni, ecco. Però le avremmo fatte comunque. minuti, 4 secondi, è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Eleonora, ci sembra che l'indice di fiducia dei consumatori americani non abbia fatto un granché bene alle borse. Eravamo a ridosso della parità e poi in realtà il calo è di 0,5 punto percentuale circa, quantomeno a Milano. Esatto, in verità appena pubblicato l'indice sulla fiducia degli americani, che è risultato ben superiore alle attese, le borse europee hanno tentato di rialzare la testa, erano sulla parità e hanno imboccato la strada del rialzo, ma poi tutto questo è durato ben poco e si sono di nuovo riportate sulla parità e poi hanno chiuso addirittura negative. Pesa un po' l'attesa per il dato americano di venerdì sull'andamento del mercato del lavoro americano, che è un po' la cartina tornasole per comprendere lo stato dell'arte dell'economia. Si teme ovviamente che questo dato possa risultare un po' una doccia fredda, e comunque è stato un po' anche un pretesto per prendere profitto sui titoli che magari nelle ultime sedute o nelle ultime settimane hanno registrato una buona performance. Giusto per dare un quadro generale, FTSE MIB chiude in ribasso dello 0,44%, il FTSE All Share dello 0,42%. Per quanto riguarda il resto d'Europa, Parigi meno 0,26%, Francoforte meno 0,11%, Londra se la cava peggio di tutti, meno 0,73%, negativa anche l'America, meno 0,15% sul Dow Jones, meno 0,21% sul Nasdaq, Standard & Poor's 500, meno 0,26%. Veniamo, Eleonora, ai singoli titoli, e però inizierei dai settori. Mi sembra di aver capito che la giornata sia stata particolarmente negativa un po' per tutto il settore automobilistico, e bene invece hanno fatto materie prime ed energia. Esatto, infatti diciamo il settore auto è andato male in tutta Europa, è stato il peggiore sul vecchio continente, meno 1,7% l'indice di settore. Non ha fatto eccezione a Piazza Affari Fiat, che in effetti ha perso il 2,49% ed ha pesato anche sulle quotazioni di Exor, la società appunto che partecipa Fiat, la cassaforte della famiglia Agnelli, che peraltro proprio ieri aveva comunicato i conti di bilancio, risultati un po' deludenti, visto che appunto sono stati archiviati con una perdita di 388 milioni contro utili di 435 dell'anno precedente. E invece energie e materie prime? Più che altro il petrolio, credo, no? In questo caso invece i titoli si sono comportati bene, il sottoindice europeo è salito dello 0,20%, Eni ha chiuso in un timido progresso dello 0,11%, ma durante della seduta era riuscita a far meglio, ovviamente beneficiando dell'andamento del petrolio, che si attesta, che viaggia stabilmente sopra gli 82 dollari al barile. Si tratta del livello più elevato delle ultime due settimane. Allora, veniamo un attimo ai singoli titoli. C'è Telecom, particolarmente positiva, un più 1,03%, è il titolo migliore del FTSE MIB. C'è qualche motivo particolare, Eleonora? Non ci sono motivi particolari, va detto che oggi si è mosso un po' al rialzo tutto il settore delle TLC, che non a caso nell'ultimo periodo invece era rimasto un po' più in sordina, un po' più in ombra. Per quanto riguarda Telecom, poi proprio nelle ultime settimane i titoli erano rimasti abbastanza schiacciati, avevano sofferto, visto che ricordiamo è stato rinviato per due volte, è stata rinviata la pubblicazione del bilancio 2009 e anche del piano industriale. La scorsa settimana però lo stesso Bernabé, l'amministratore delegato, aveva fornito indicazioni positive, ha detto che i primi mesi dell'anno lo rendono soddisfatto, e quindi le Telecom appunto stanno un po' rialzando la testa, e oggi in particolare si sono mosse insieme a tutto il settore europeo, facendo addirittura meglio. Diciamo subito a chi ce lo chiede al 349-238-6666 che il comitato nomine di Mediobanca oggi, che ha di fatto nominato Renato Pagliaro alla presidenza, non ha mosso più di tanto il titolo, un calo dello 0,37%. Bene ha fatto un altro bancario, che è il Banco Popolare, Eleonora. Sì, è l'unico titolo del comparto bancario che si è mosso al rialzo, più 0,67%, sono in arrivo adesso appunto i dati del 2009 e poco più tardi inizierà la conference call dei vertici dell'istituto con gli analisti e la comunità finanziaria. Gli analisti comunque si attendono conti in crescita e un ritorno all'utile nell'ultimo trimestre del 2009. In effetti l'attesa per conti appunto buoni la si vede proprio dalla performance di borsa, che è stata positiva. Giù Pirelli del 2,35%, ma ieri insomma aveva fatto parecchio bene, no? Ieri i titoli si erano mossi al rialzo, c'erano diversi giudizi positivi, ma soprattutto articoli di stampa avevano di nuovo rilanciato l'ipotesi che la società farà a breve lo scorporo degli asset di real estate, cioè di immobiliare, e peraltro proprio ieri il numero uno dell'azienda, Marco Tronchetti Provera, ha confermato appunto che le energie del gruppo si concentreranno per scorporare le attività immobiliari da quelle invece industriali, operazione che dovrebbe venire nel corso di quest'anno e che dovrebbe sospingere in alto quindi le quotazioni, visto che razionalizza la struttura del gruppo. Oggi però appunto sono scattate le prese di beneficio anche sull'onda del fatto che le concorrenti Michelin e Continental sono andate male insieme al comparto auto, al quale Pirelli e tutto il comparto dei pneumatici ovviamente è legato a doppio filo. Grazie dunque ad Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Giusto un quadro finale di giornata, quantomeno per quanto riguarda il FTSE MIB. Di Fiat, Exor e Pirelli vi abbiamo detto, Azimut in calo del 2,14%, ST Microelectronics dell'1,89%. Giù Mediolanum dell'1,69%, la Popolare di Milano dell'1,68%, il Monte dei Paschi l'1,5%, Prismian giù dell'1,42%, Intesa San Paolo, che non è sparita dalla borsa come scrive un ascoltatore, ma c'è, e c'è dell'1,33%, Geux in calo dell'1,32%, Bulgari dell'1,30%, CIR dello 0,92%, così come Buzzi è in calo dello 0,90%, dello 0,87% scendono Tenaris, Impregilo, Unicredit dello 0,79%, Fondiaria Sai dello 0,71%, giù Parmalat dello 0,60%, intorno a questo calo fa anche UBI Banca, Autogrill, Ansaldo, Italcementi giù di circa mezzo punto percentuale, Finmeccanica dello 0,45%, Mediobanca dello 0,37%, si è detto, Lottomatica dello 0,28%, Luxottica dello 0,20%, Saipem dello 0,17%, Unipol dello 0,12%, Enel dello 0,06%, perfetto pareggio per Mediaset, Terna, Snam, Retegas, Enisu dello 0,11%, Atlantia dello 0,12%, Generali dello 0,22%, Campari dello 0,30%, A2A dello 0,43% e, come vi abbiamo detto, Banco Popolare più 0,67% e Telecom Italia più 1,03%. Adesso parliamo di mercato immobiliare. Allora, a Bologna è stato presentato il rapporto Nomisma 2010 sul mercato immobiliare italiano. È un settore che interessa in assoluto e interessa tutti, naturalmente, perché riguarda le case, le nostre case, ma interessa anche dal punto di vista macroeconomico e finanziario, se vogliamo, perché, come già si diceva in apertura e poi alla fine, dal mercato immobiliare, sul mercato immobiliare che si è ripercossa per prima la crisi, perché è dal mercato immobiliare, dai cosiddetti mutui subprime, che la crisi è partita e dunque abbiamo un mercato che oggettivamente stenta ancora a riprendersi dopo aver subito una botta oggettivamente pesantissima. Saluto Daniela Percoco, che è direttore di Nomisma Real Estate. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci fornisca innanzitutto qualche dato, ci dia un'idea. Mi sembra di capire che i prezzi non solo continuano a scendere, ma continueranno a scendere anche nel 2010. Sì, i prezzi nel corso del 2009 hanno perso attorno al 4%, tra il 3,5% e il 4%, a secondo delle realtà urbane che andiamo a considerare, si tratta comunque di medie. Anche nel 2010 ci attendiamo un ripiegamento dei valori intorno a un 2-3%, anche qui a seconda delle tipologie immobiliari considerate, oppure delle città, ma il calo maggiore che si osserva sul mercato non è tanto in relazione ai valori di compravendita quanto rispetto alle compravendite, alle transazioni che vengono effettuate. Infatti, mi scusi, cosa intende con questo? Cioè che vengono presi in esame alla fine i prezzi finali? No, in realtà che i prezzi sono calati sì, ma sono calati maggiormente il numero di compravendite, quindi sono calate le transazioni. Ah, perfetto, chiarissimo, chiarissimo. Quindi non tanto la riduzione sui valori quanto sulle quantità, che appunto, come dicevo, si sono ridotte enormemente, e noi calcoliamo che nel giro degli ultimi 3 anni abbiamo perso circa il 30% di compravendite rispetto al picco del 2006-2007, cioè 250.000 compravendite in meno. Ci dà un quadro, secondo lei, di tempi di ripresa di questo mercato? È chiaro che naturalmente tutto dipende moltissimo da una serie di elementi. Naturalmente il costo del credito, insomma, quanto costa il denaro, quanto costa il denaro a chi deve comprare casa o fare grandi operazioni immobiliari, dipende naturalmente, e come è ovvio, dalla ripresa economica. Però siete riusciti a farvi un'idea, dottoressa Percocco? Sì, sono tutti fattori assolutamente determinanti, fortemente correlati all'andamento del mercato immobiliare. L'andamento macroeconomico che stenta un po' a riprendere, ed è per questo che spostiamo sempre un po' in avanti la ripresa del mercato. L'andamento macroeconomico è direttamente legato a quella che è la fiducia delle famiglie, delle imprese, che non sono così propense come un tempo ad investire, ad acquistare, ad impegnarsi per il futuro, perché non hanno delle grosse, delle solide certezze. E questo nonostante che il costo del denaro in questo momento sia piuttosto a basso costo, sia piuttosto contenuto. Quindi è in questa fase un problema di fiducia rispetto al futuro, piuttosto che non di onerosità del debito. Allora, resti con noi un attimo, diamo la linea alla viabilità, insomma sentiamo che cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo e concludiamo il discorso sul mercato immobiliare. (349) 238 6666 per i vostri sms, e c'è una domanda che ci arriva via sms. Con questa andiamo a chiudere la nostra chiacchierata con la dottoressa Percocco. Ci dice un ascoltatore: il calo è sui immobili vecchi, sui nuovi per certifiche, per nuove leggi è improbabile che ci sia un calo dei prezzi, la tenuta dei prezzi garantisce stabilità. È vero oppure no? Sì, noi vediamo che ci sono i mercati immobiliari a due velocità, cioè immobili di qualità, ben localizzati, appunto si diceva nuovi, magari con risparmio energetico e tutta una serie di caratteristiche che le elevano dal punto di vista qualitativo, laddove la domanda è recettiva e i prezzi sono abbastanza stabili. Al contrario invece ci sono invece appunto immobili più scadenti dal punto di vista della qualità, usati oppure da ristrutturare, in localizzazioni fuori mano, con delle impiantistiche obsolete e così via, che dove invece appunto i prezzi sono abbastanza elastici verso il basso. Un'ultimissima domanda, e abbiamo veramente 30 secondi. Ci chiede un altro ascoltatore: Marco, il calo della domanda di case non dovrebbe far calare il prezzo? Effettivamente il prezzo cala, ma non così tanto quanto calano le compravendite. È così, in questo momento noi osserviamo questo, cioè che in Italia, dato una struttura comunque patrimoniale delle famiglie piuttosto solide, che non sono costrette a vendere la loro casa come invece è accaduto all'estero, negli Stati Uniti o nel Regno Unito, dove appunto ci sono state flessioni dei prezzi molto elevate, dicevo, in Italia non c'è questo bisogno così diffuso di vendere la casa e di buttare sul mercato un'offerta abbondante, quindi questo non ha depresso fortemente i prezzi come invece è accaduto. Chi non è obbligato a vendere la casa non la vende, anche se c'è una bassa domanda, e questo tiene dà una certa tenuta al mercato, alle quotazioni. Grazie dunque a Daniela Percocco, direttore di Nomisma Real Estate, per essere stata con noi. Buonasera. Arrivederci. Io vi ricordo tra l'altro che domani di questo tema di mercato immobiliare, di compravendite, si tornerà a parlare in salvadanaio alle ore 12, mentre adesso torniamo sull'economia delle aziende italiane, soprattutto sul Made in Italy. Mentre le agenzie battono, in realtà un'altra notizia è quella che riguarda le tariffe. L'Authority fa sapere che da aprile è un meno 3,1% per la luce, un più 3,6% per il gas. Vi daremo qualche dettaglio in più più avanti nel corso della trasmissione. Vi parliamo adesso della conferenza inaugurale del quinto Summit Made in Italy, quali frontiere per il commercio internazionale Made in Italy. Nel 2009 esportazioni crollate del 20%, previsione per quest'anno crescita del 4,5%. I lavori si sono svolti in via Monterosa, sede del Sole 24 Ore a Milano. Li ha seguiti per noi Valentina Furlanetto. Raddoppiare la crescita delle esportazioni italiane entro il 2011 con un piano straordinario di promozione e di sostegno finanziario. L'idea del governo è stata annunciata dal viceministro per lo sviluppo economico Adolfo Urso durante il quinto Summit Made in Italy che si è tenuto a Milano. Un piano che dovrebbe invertire la tendenza negativa in atto quando l'Italia l'anno scorso ha perso il 20% del proprio export. Su quanto il governo voglia investire, però, Urso non si sbilancia. Noi stiamo affinando i processi per l'esportazione con la LICE, e con cui abbiamo iniziato manifestazioni di promozione straordinaria nel mercato degli Stati Uniti, laddove i consumi tendono a riprendere, e soprattutto nei mercati emergenti, dove le nostre imprese hanno trovato finalmente nuovi mercati. Lo dimostra il fatto che già da alcuni mesi le nostre esportazioni nei mercati emergenti sono in forte crescita, non tali ancora da compensare pienamente la crisi del mercato dell'Unione Europea, e anche negli Stati Uniti nelle ultime settimane sono visti segnali di ripresa delle nostre esportazioni. Abbiamo poi affinato gli strumenti finanziari e creditizi anche grazie all'attività e al nuovo ruolo svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti, che anche in questo campo, insieme alla SACE da una parte e alla SIMES dall'altra, può supportare meglio le necessità finanziarie, creditizie e assicurative delle imprese che esportano di fronte a una carenza obiettiva del sistema bancario. Al convegno si è parlato anche della nuova legge sull'etichettatura dei prodotti Made in Italy. La norma riguarda i settori tessile, pelletteria e calzaturiero e prevede che per poter applicare l'etichetta Made in Italy i prodotti debbano aver compiuto almeno due fasi della lavorazione in Italia. Una legge voluta da un ampio schieramento trasversale, ma che ha già ricevuto delle critiche. Una giacca, ad esempio, confezionata in Cina con tessuti italiani, potrà fregiarsi comunque dell'etichetta Made in Italy. Paolo Zegna, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria. È una legge che sicuramente smuoverà le acque, visto che l'Europa langue sul problema del regolamento per le merci importate, che lì da troppo tempo deve a un certo punto prendere una decisione, e noi ovviamente ci auguriamo positiva. Detto questo lato positivo, io sinceramente, personalmente, non definisco la legge Reguzzoni positiva. Ad esempio, nei prodotti del tessile abbigliamento, due fasi su quattro, senza l'inclusione che una di queste fasi deve essere una fase sostanziale, è per me peggiorativo rispetto a quello che è la regolamentazione internazionale. Permetterebbero effettivamente di dichiarare Made in Italy un prodotto che poi nella fase sostanziale non è realizzato in Italia. Noi abbiamo alla commissione che ci ha convocato detto quello che pensavamo e speriamo sinceramente che l'Europa effettivamente tenga conto di questo aspetto, ripeto, che forse è sfuggito ai legislatori sicuramente, ma anche a chi l'ha proposto. E infatti la nuova legge, per entrare in vigore, dovrà passare al vaglio della Commissione europea. C'è tempo fino a ottobre. Il dibattito nel frattempo è aperto. Michele Tronconi, presidente del sistema Moda Italia. Chi ha diritto di beneficiare di questa reputazione? Soltanto chi ha sviluppato l'ultima fase? Soltanto chi ha progettato un prodotto e poi lo realizza in giro per il mondo? Il problema c'è, va risolto, però attenzione, bisogna sempre anche rispettare quello che è un discorso di certezza del diritto, di chiarezza della norma, e questa legge senz'altro non ha colto questo obiettivo. Quando un prodotto è stato realizzato con il concorso di più paesi è il paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale che conferisce l'origine a un prodotto, e questa è una regola internazionale che va al di là della singola comunità europea, ma coinvolge tutti i paesi aderenti al WTO. Noi con la legge che abbiamo fatto qui in Italia abbiamo stravolto qualcosa che abbiamo sottoscritto non solo come comunità europea, e mi riallaccio al Trattato di Roma del 1957, ma addirittura come partecipanti anche in termini diretti al WTO. Uno dei settori del Made in Italy più in difficoltà è quello del legno e dell'arredo, che l'anno scorso ha visto il suo fatturato scendere del 20% e le esportazioni del 23,5%. Rosario Messina è presidente di Federlegno Arredo. Per pensare ad una ripresa non si può guardare almeno nei prossimi 3-4 anni, perché noi che siamo un settore dell'arredamento dedito all'esportazione, quello che è crollato sono i paesi che per noi erano i maggiori importatori, cioè in modo pesante Stati Uniti, Inghilterra, Russia. Fortunatamente ci siamo difesi abbastanza bene in Europa, ma solo questo non basta. Andremo nei paesi nuovi, Cina che sta aumentando le importazioni ma evidentemente parte da volumi bassi, India, Sudafrica, ma sono paesi che avranno bisogno qualche decennio. Il governo sta facendo abbastanza per difendere il Made in Italy? Abbiamo avuto un incentivo che riguarda esclusivamente di 1000 euro il settore delle cucine, e siccome ci era stato promesso che sarebbe stato tutto il settore del mobile, mi sono permesso di evidenziare il grande delusione e rammarico di un settore che per 50 anni non ha mai chiesto niente, in quanto gli incentivi discriminavano in modo mostruoso il settore dell'arredamento, e credo che in questo qualche ministro, sentendo la verità che ho dovuto dire, sia arrabbiato. Mi rammarica molto, ma non posso non difendere un settore che per 50 anni ha tenuto alto l'orgoglio del Made in Italy in 158 paesi del mondo. Al contrario, i prodotti alimentari sono quelli che stanno invece soffrendo di meno. Gian Domenico Auricchio, fondatore dell'omonima azienda e presidente Federalimentare. Il 2009 è stato un anno difficile. Un anno difficile per l'industria, pensi che la produzione è diminuita di oltre il 18%, quella alimentare poco più dell'1%, quindi le doti anticicliche dell'alimentare si sono messe in evidenza anche nel 2009. La stessa cosa nell'export. L'export italiano ha perso in questo anno drammatico oltre il 20%, il 20,7% come industria, l'alimentare italiano invece poco più del 3%, e questo 3% è dovuto soprattutto al crollo di alcuni mercati di grande importanza per lo sbocco dei prodotti alimentari, quali gli Stati Uniti 10%, il Canada 5%. Credo che la legge sulla contraffazione voluta dal governo, questo credo che sia un tassello fondamentale. Ricordiamoci, la contraffazione per sua stessa non può che essere di minore qualità, e sicuramente, parlando di prodotti alimentari, non ha quella sicurezza alimentare che invece caratterizza i prodotti alimentari italiani. Questo dunque il quadro di questa giornata del quinto summit Made in Italy, lavori seguiti dalla nostra Valentina Furlanetto, che ci ha chiuso questo ottimo servizio, questo ottimo reportage sulla situazione, che ci ha dato un quadro interessante, soprattutto se si considera anche che oggi lo stesso Fondo Monetario Internazionale, del quale abbiamo parlato in apertura, ha segnalato la sofferenza dell'export italiano, che rischia di accentuarsi col fatto che soffrono anche i paesi verso i quali solitamente esportiamo. Questa dunque la situazione. La linea va al giornale radio. Ci ritroviamo subito dopo. Come annunciato, parliamo di riforme e torniamo sulle parole di oggi del ministro dell'economia. Le 18, 7 minuti e 3 secondi. Prima di passare a parlare dell'agenda post elezioni, se così vogliamo dire, un altro quadro delle notizie in breve di questa giornata. Iniziando dalla borsa, è stata una chiusura negativa quella di oggi a Milano, ve ne abbiamo parlato, un calo dello 0,44% per il FTSE MIB, mentre il FTSE All Share è sceso dello 0,40%, giornata complessivamente negativa un po' su tutte le borse, anche se l'America in questo momento è in perfetto pareggio. Tutto questo in seguito alla diffusione del dato sulla fiducia dei consumatori americani, salita a 52,5 punti, le attese degli analisti si attendevano tra i 50 e i 51, quindi è stato tutto sommato positivo, ma la realtà è che si attende il dato sulla disoccupazione. dato che vi accennavamo poco fa, quello sulle bollette elettriche e quelle del gas. Secondo i dati comunicati dall'Authority per l'energia nel consueto aggiornamento trimestrale, allora dal 1 aprile la luce costerà il 3,1% in meno, con un calo della spesa media delle famiglie, secondo l'Authority, che si aggirerà intorno a 13 euro su base annua, mentre il prezzo del gas crescerà del 3,6% e l'aggravio sarà di 34 euro, a conti fatti un aggravio di 21 euro. Da segnalare che è stata accompagnata la diffusione di questi dati dalle parole del presidente dell'autorità dell'energia, Alessandro Ortis, il quale dice che sull'aumento dei prezzi del gas pesano non solo le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ma soprattutto le costose asimmetrie ancora evidenti rispetto al settore elettrico. I mercati internazionale e nazionale del gas sono ancora caratterizzati da livelli insoddisfacenti di concorrenza ed energia. Attenzione, internazionale ma anche nazionale. Queste le parole di Ortis. Passiamo adesso appunto all'agenda post-elettorale. Dunque, le elezioni, lo avete sentito ampiamente nei nostri speciali come sono andate, sono delle elezioni che molti osservatori, forse fatta eccezione per quelli dalle parti del Partito Democratico, sono andate piuttosto bene per la coalizione di governo nel suo complesso. Insomma, a prescindere dal peso dei singoli partiti, apparentemente il governo ne esce piuttosto rafforzato. Di questo, anche di questo si è parlato, una cosa che abbiamo accennato già prima nella giornata di oggi. È stato presentato dal Fondo Monetario Internazionale il rapporto preliminare sull'Italia e naturalmente in fase post-elettorale il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha colto l'occasione per segnalare quali fossero appunto le riforme delle quali ha bisogno il paese e anche per sottolineare l'impegno del governo ad effettuare queste riforme nei prossimi tre anni. Naturalmente, e se ne è parlato moltissimo in quest'ultimo periodo, insomma già da qualche tempo, già da qualche mese, su tutti per Tremonti c'è la riforma fiscale. Per noi, e l'abbiamo detto altre volte, la riforma delle riforme è la riforma fiscale. La riforma fiscale sarà in parte una revisione del sistema anche di prestazioni, diciamo, il sistema, poi ne parleremo un'altra volta, però il sistema fiscale italiano è un sistema che si è complicato enormemente nel corso degli anni e si è incrociato con il sistema previdenziale, non capisce più dove arriva la previdenza e da dove comincia il fisco. Noi pensiamo che sia arrivato il tempo per fare chiarezza su queste missioni. E poi il federalismo fiscale, che è parte della riforma fiscale. È molto ambizioso, noi pensiamo che debba essere fatta una riforma fiscale che allinea il nostro sistema al tempo che viviamo. Altre volte abbiamo detto che il sistema fiscale italiano è stato disegnato negli anni 60, messo in legge negli anni 70 e quel mondo non c'è più. 18, 11 minuti, 32 secondi e salutiamo Orazio Carabini, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Che è in studio con noi qua a Roma. Oggi firma un editoriale, appunto un commento e un'analisi anche sul Sole 24 Ore, l'ora delle riforme, ormai all'ultima chance per rilanciare l'economia. E con lui vogliamo fare proprio il punto su quella che deve essere, o che dovrebbe essere, o che potrebbe essere l'agenda post-elettorale del governo. Allora Orazio, io partirei proprio da quello che abbiamo appena sentito da Tremonti. Mi sembra abbastanza evidente anche da quello che emerge dal tuo commento di oggi che il tema non è tanto e non solo la riduzione fiscale, quanto la semplificazione di un sistema devastante dal punto di vista appunto della difficoltà per i contribuenti. Sì, è bene che Tremonti si prenda impegni a riformare il sistema fiscale. Probabilmente farebbe bene a dire anche che nel medio periodo difficilmente ci sarà la possibilità di concedere sgravi alle varie categorie. Però, come dicevo, anche a pressione fiscale invariata, cioè mantenendo intatto l'ammontare di risorse che vengono sottratte al sistema attraverso il fisco, c'è molto da fare perché, come diceva Tremonti stesso, si può semplificare il sistema, quindi ridurre l'onere degli adempimenti che ricadono sui contribuenti, e che questo è un modo per aumentare la produttività del sistema. Se la macchina amministrativa funziona meglio, aiuta di più il contribuente a fare il suo dovere, se riesce a far emergere base imponibile, cioè redditi che attualmente sono sottratti al fisco, allora il carico si può redistribuire più equamente. Anche questo è un modo per aumentare l'efficienza del sistema. Per cui la riforma fiscale è una delle riforme più importanti che ci attendiamo in questo benedetto triennio senza elezioni, come abbiamo scritto un po' tutti in questi giorni. Sì, che per l'Italia tra l'altro è abbastanza particolare, insomma, sì. Siamo abituati a votare un pochino più spesso, e fa parte, questa riforma potrebbe far parte, Orazio, di quelle famose riforme a costo zero che ci tocca fare, perché riforme costose oggettivamente con i conti pubblici che abbiamo è un po' complesso. Purtroppo per molti anni dovremo fare i conti con disponibilità di bilancio risicate, per cui aspettarsi un grande aiuto all'economia dal bilancio pubblico è difficile sui vari fronti, dove invece ci sarebbe bisogno, a cominciare, per dire, dalla dotazione infrastrutturale del sistema, che richiederebbe grandi investimenti. Invece bisognerà continuare a tenere stretti i cordoni della borsa. Il Fondo Monetario oggi, in questo senso, ha riconosciuto all'Italia una tenuta nel momento difficile come quello che è appena passato e quello che stiamo vivendo, che è abbastanza inconsueto, quindi di questo dobbiamo essere in qualche modo anche abbastanza orgogliosi. Allora, sono le 18:14 minuti e 52 secondi. Adesso diamo la linea alla viabilità e poi torniamo su un altro tema, anche questo toccato dal Fondo Monetario e che il nostro Orazio Carabini ha toccato appunto nel suo editoriale, che è quello dell'occupazione. Perché insomma, sì, le cose sono andate meglio, lo dice il Fondo Monetario, lo dice da tempo il governo, eppure insomma qualcosina nel sistema di protezioni sociali, e anche questo si dice da tempo, forse andrà toccato. La viabilità. Se sul fronte della previdenza oggi il Fondo Monetario Internazionale e delle pensioni in particolare ha chiesto, ma non è la prima volta che lo fa, così come l'hanno fatto altri organismi internazionali, ha chiesto di dare sostanzialmente un'accelerata su alcune cose, in particolare per esempio sull'aumento dell'età pensionabile, e il ministro Tremonti in una giornata come questa ha preferito in particolare non sbilanciarsi, anche perché a tutti gli effetti nel rapporto del Fondo Monetario c'è anche scritto che il sistema è sostanzialmente in equilibrio, cioè sono stati fatti dei grossi sforzi da parte dell'Italia che avranno attuazione un pochino più a lungo termine rispetto ad altri paesi, e però sono degli sforzi più energici rispetto appunto a questi altri paesi che hanno messo in atto riforme della previdenza. Se sulla previdenza il ragionamento è questo, un discorso forse diverso si può fare sul fronte del lavoro, ossia il sistema di ammortizzatori sociali. Il Fondo Monetario, così come il governo, dice appunto che la disoccupazione, ed è oggettivamente vero, è andata meglio, insomma la situazione dell'occupazione è andata un pochino meglio che in altri paesi. Orazio, però qualcosa c'è da fare. Sì, un brevissimo accenno alla previdenza, perché quello che si chiede, quando si chiede, non è di rivedere l'impalcatura che è stata costruita in questi anni e che tutti gli organismi internazionali riconoscono essere efficiente, quanto la possibilità di recuperare risorse utili anche ad aumentare le pensioni stesse più basse, perché visto l'innalzamento progressivo dell'aspettativa di vita, non si capisce perché dobbiamo continuare ad andare in pensione a 60, 61, 62, 65 anni, mentre altri paesi sono già arrivati a 67. Ma chiusa questa parentesi, per andare all'occupazione. L'occupazione, ovviamente, la strada maestra per farla riprendere è la crescita. La crescita richiede tutto un contorno di azioni di sistema di cui abbiamo parlato, delle infrastrutture al bilancio pubblico, la scuola, la sanità, eccetera. Poi però bisogna trovare il modo di tutelare chi resta senza lavoro. La preoccupazione dei ministri che si occupano di economia è di non di non deresponsabilizzare gli individui, cioè di non fargli trovare la pappa pronta, per dirla brutalmente. Quindi questo secondo loro è un modo per ridurre l'efficienza del sistema, perché poi la gente si siede e non si dà da fare per trovare un lavoro. Io, molti altri pensano, ma lo stesso ministro Sacconi nell'intervista che pubblichiamo oggi si mostra consapevole del fatto che una revisione del sistema di ammortizzatori sociali il più possibile non dispendiosa si può fare, e per farla occorre puntare sui meccanismi di formazione, cioè di riconversione delle capacità professionali degli individui che restano senza lavoro, e dei meccanismi che consentano di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro nel modo più rapido possibile, scoraggiando anche i meccanismi di rifiuto dei lavori non graditi che sono ancora molto presenti nel mercato del lavoro. Ecco, però si può obiettare anche, Orazio Carabini, che tutto sommato in questa fase di crisi il sistema di ammortizzatori sociali che abbiamo ha funzionato, ha retto molto bene. Sì, sì, la cassa integrazione ha funzionato. È un po' a sua volta un meccanismo un po' passivo rispetto a quelli che descrivevamo poco fa. Però non c'è dubbio che gli effetti sul mercato del lavoro italiano sono stati meno violenti che in altri paesi, nonostante la caduta del prodotto sia stata tra le più violente a livello internazionale. Certo, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, si riferisce all'età pensionabile, dice 70 e non ne parliamo più. Beh, insomma, cioè, ci vorrà qualche tempo, dovremo arrivare a 120 anni di vita, di aspettativa di vita. Ma perché non flessibilizzare il meccanismo, lasciare la scelta agli individui? Cioè, considerato che 65 può essere il minimo, anziché andarci per forza, si può lasciare all'individuo la scelta se continuare a lavorare, quindi continuare a restare sul mercato, oppure rinunciare e ritirarsi. In questo modo sicuramente le casse dell'INPS ne avrebbero un vantaggio, così come il bilancio pubblico. Bene, a chi ci fa notare gli anni di contributi necessari in genere ai politici per arrivare alla pensione, che dobbiamo dire, insomma, naturalmente è una battaglia persa. È una battaglia persa. Bene, l'altra grande partita, e anche qua ci sono giudizi positivi, lo avete sentito all'inizio di trasmissione da parte del Fondo Monetario Internazionale, è quella del federalismo fiscale, che naturalmente viene rilanciata in questa fase nella quale la Lega si viene a trovare oggettivamente in una posizione di maggiore forza rispetto alle precedenti elezioni. Dunque, sentiamo che cosa ha da dire il ministro Tremonti su questo. Già abbiamo un pezzo del federalismo ed è il titolo quinto, che trasferisce competenze alle regioni. Manca la componente fiscale e il federalismo o è fiscale o non è. Finora noi abbiamo avuto i costi del federalismo, quindi l'ipotesi che il federalismo fiscale faccia aumentare i costi è priva di una base logica. Noi abbiamo già imbarcato i costi, adesso dobbiamo e possiamo ridurre i costi. Le faccio un esempio. Pensioni di invalidità, fino al titolo quinto la spesa era 6 milioni, dopo il titolo quinto a oggi è salita a 16 milioni, e questo non ha causa nella diversa struttura sociale del paese, non cambi la struttura sociale di un paese in 10 anni, in 8 anni, è cambiata l'architettura istituzionale che ha dato alle regioni il potere di spesa senza la responsabilità. Quindi noi abbiamo col federalismo fiscale solo la prospettiva di ridurre, di contenere l'aumento di spesa. Finora del federalismo abbiamo avuto gli aspetti negativi, non quelli positivi per il bilancio dello Stato. Quindi noi siamo convinti che non sarà causa di aumento, ma causa di rigore. 18:23 minuti e 18 secondi, il ministro dell'economia si dice convinto che il federalismo fiscale, possiamo forse dirci d'accordo, Orazio, se ben attuato può essere fonte di rigore, però deve essere ben attuato. Parole sante, se la realtà sarà quella che descrive il ministro Tremonti in queste poche frasi, non, dobbiamo solo sperare che il federalismo arrivi nel più breve tempo possibile. L'importante, ecco, che da un lato i meccanismi fiscali riguardino, il termine fiscale si è inteso in senso inglese, cioè riguardi sia il lato dell'entrata sia il lato della spesa, perché è vero, ci sono le pensioni di invalidità che sono cresciute enormemente, ma c'è la spesa sanitaria per la quale la stessa legge sul federalismo prevede l'introduzione di standard per cui le regioni meno efficienti dovranno adattarsi ai costi di quelle più efficienti. Se effettivamente sarà così, ci sarà un risparmio per il bilancio pubblico notevole, purché esistano i controlli, esistano le sanzioni, eccetera. Il fisco a sua volta dovrà tener conto di questo, cioè non è pensabile che poi ciascuna amministrazione regionale o comunale possa muoversi nel labirinto fiscale con troppa disinvoltura, perché anche lì corriamo il rischio di perdere il controllo. Ci sono alcuni ascoltatori, e lo segnalo perché naturalmente è dovuto, e ci mandano alcuni sms che riguardano ancora l'età pensionabile, perché naturalmente è un tema importante e che... Soprattutto in Italia, dove siamo il paese con l'età... Con l'età pensionabile più bassa, ma fondamentalmente gli ascoltatori che ci scrivono sono lavoratori che fanno lavori pesanti, magari gente che fa turni da 30 anni, ci dice dopo 30 anni di turni francamente gradirei andarmene in pensione piuttosto che lavorare fino a 65. Ma proprio per quello suggerivo la strada della flessibilità e non del vincolo stringente. Oltre a una disciplina rigorosa, no, non esageratamente, ma giustamente rigorosa, per appunto per tutelare chi fa un lavoro usurante. Infine, il tema dei consumi e della fiducia è stato posto in conferenza stampa al Ministro dell'Economia, che poi ci porta anche un pochino sul tema dei conti pubblici, che è quello a cui dobbiamo naturalmente sottostare come Paese. La fiducia è fondamentalmente fiducia nel sistema, e il sistema è fatto dai bilanci pubblici. Se lei, per rilanciare la domanda, distrugge i bilanci pubblici, lei non rilancia la domanda, lei distrugge il sistema. Quindi se la domanda sua era come stimolare i consumi, la risposta è certamente non distruggendo il bilancio pubblico. Beh, Orazio, questo è il grande problema italiano, direi. Sì, Tremonti sappiamo bene che ha scelto questa strada, molti paesi ne hanno scelta una diversa, le basi di partenza erano anche diverse, perché noi partivamo, ahi noi, da uno stato della finanza pubblica più grave di quello degli altri paesi, con un debito elevato, un mercato che ci tiene sempre gli occhi addosso e un differenziale dei tassi di interesse rispetto ai paesi più forti abbastanza significativo. Quindi Tremonti continua su questa linea, ha ragione a farlo, perché adesso il periodo brutto della recessione è passato, quindi sarebbe anche abbastanza curioso che adesso diventasse improvvisamente espansionista, e per cui non ci sorprende. Continueremo così, ma questo non implica che anche noi dobbiamo rientrare dal debito, perché gli altri ci sono arrivati adesso e forse ci aiutano ad avere una classifica meno peggiore di prima. Ma anche noi dobbiamo rientrare, perché noi arriveremo al 115, al 120% del PIL, e quindi questo è un livello non sostenibile da cui bisogna rientrare, per cui sarà necessario agire anche su quel fronte. Bene, grazie ad Orazio Carabini, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. A chi ci scrive dovremmo poter scegliere se andare in pensione anche prima, rispondiamo, è esattamente quello che Orazio Carabini ci ha detto 3 minuti fa. Io ringrazio Pietro Lacorte in regia a Milano e Alessandro Chiappini a Roma, Gloria Guerrera in assistenza a Roma, e Mauro Del Corno e Barbara Bianchi a Milano. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto, una buona serata da Simone Spezia. Focus Economia torna domani. Radio 24. La passione si sente.